E torniamo in diretta, dato che dicevo che prima non mi piaceva il colore giallo-rosso, però Joe Mann insieme a suo fratello Killa Cat pochi giorni fa ha fatto uscire una canzone che si chiama Mamma Cinema, dedicata proprio al Catanzaro salito in Serie B. Io tifo Crotone, il Catanzaro è il rivale calcistico, ma fortunatamente squadre del sud che continuano a giocare a calcio e a mostrare davvero quello che si può fare qui al sud, giù al sud. E adesso andiamo ad ascoltare Mamma Cinema, Joe Mann e Killa Cat. Sconfitte, playoff persi, ne ripigliamo tutto con l'interesse. Milan intero, Juve, non mi interessi. A me mi batto ancora sul lupe giallo-rossi. Che importa, c'è Fulignati, non ma bimbulicati, serrandi baciati. Se davanti e Brighenti ti spaventi, con Martinelli e Scogna, chi ti inventi? Al Cerabole uno fisso, con Guillaume Verne e Pontisso. Ui, le difese distrutte da bande putte. I due gol di Brignola li sogno ancora. E se l'erba sulla fascia non la vedi più, o sono passato io e colpa di Shitun. Gli asce su una, mamma squaciuna. Ma il gioiello è gemello, illustrissimo come il morsello. Tutti in curva il coro e la scossa. Spento la bandiera giallo-rossa. Mamma cinema, fame di vittoria, pura chimica. Prega di scavati la fossa. Ora è tardi per la tua rimonta. Se rivista mamma cinema, a cui le vuole in città. Latini, con la G, con la B, se la vi. Quanta strada per arrivare qui, quanta amarezza per un anno così. Questa va a tutti i fratelli che non ci sono più, a chi va allo stadio da poco, a chi non ci va più, a chi è stato troppo tempo con la testa all'ingiù, a chi invece l'ha tenuta sempre su, su. E la curva grida forza Aquila, le presidente, guarda quanta gente che c'è, comandante, come Vivarini in nome, tutti insieme, mo gridiamo Aquila, le. Sì, l'abbiamo ascoltata tutta quanta. Mamma cinema, come ha detto proprio Killa Cat e Joe Mann. Sono partiti con questa traccia un po' che ricorda anche quella di Brusco, no? Per lo scudetto. Ma adesso così continuiamo, proseguiamo, scegliete voi. Io ho fatto un mix con Pressure, Coffee featuring Buju Banton, voce angelica, eh. Hear that? Them think it's a joke. Sister, down to them now. Ooh, yeah. It's real. Never before. Do you have any doubt? Ooh, this one for talking about. Nothing. Under the pressure, under the pressure, yeah. Under the pressure, under the pressure. If your watch up and take away now. Cause we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry down. Whoa. I hurt your heart, you know. But do not make it stressful. Cause if I feel it better, not feel it in the ghetto. Feel it under the pressure, my friend. Some we born in the struggle, isolated in a bubble. One half in the rich, yet another for the poor. Jobless and please help us, we can't take no more. We're feeling the pressure, we are down to the core. Oh, money for the young, when them send it offshore. And every nation come here, get rich and we stay poor. Them show you $20, we'll go through the back door. Tell them, so we can't. fi be better, not fi live in a di ghetto, fi be under the pressure, my friend. It's real. Yeah. Lord have mercy, this can't get no worse. If we call it a curse, so me heart it a hurt me. Call it thirsty because from me birth to the first me, I feel like the father deserts me. But when the pressure erupt, me never give up. No, no, no, me never give in. I mean, I send up a prayer for the better living. I can't fall, so I better be sick. And so under the pressure, under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure. If your watch up, it take away now. We cheat and settle, cause we all under pressure, my friend. Sometimes when you're feeling, you cry down. I wish your heart, you know, but do not make it stressful, cause it's happy be better, not be living and you get up to be under the pressure, my friend. It's serious, a lot of times I find it serious. Life is a little mysterious, some we put and we can't even steer it up, oh no. I can't wait for morning gone. Oh gosh, the night too long. Oh gosh, the fight too long. Yeah, under the pressure, under the pressure. If your fortune be taken away now, we cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry down. I hurt your heart, you know, but do not make it stressful, cause it's happy be better, not be living at the ghetto, be it's under real. The pressure, my friend. Yes, the pressure is real and the world I feel, yet we now give up. Overflowing up with cup and the system corrupt. Look how hard some work and it's still not enough. Oh no, lock down the world, no nobody now walk. I know food out in the house while the bills pile up. When you listen politician, you say wait a second. Do they feel the same as you and I do? Under the pressure, under the pressure, yeah. Under the pressure, under the pressure. It's your watch up and take away now. We cheat and settle cause we all under pressure, my friend. E queste sono le prime tune di DJ Smash. Osh on the mic per poco e come sempre un saluto a tutti gli amici del Branca, un saluto agli amici e alle amiche di Telegram e soprattutto un saluto speciale questa sera al mio amico, compagno e collega Emanuele, a tutti gli ospiti di Welcome, una realtà che esiste in quel di Montesago, per chi non la conoscesse ci sono vari social, si informassero, ma a breve con Jolly Roger riospiteremo il nostro amico Emanuele. Proseguiamo la nostra trasmissione in attesa della chiamata a Nerone. Un saluto al nostro fratellone Taueli che anche questa sera si trova in giro per lavoro e noi proseguiamo la puntata così, dedicandogli questo pezzo. Oh, you go. Watch out the chopper, them a chop. Spy pan we feel and them want take with crops. Tell your friends start so we never like cops. Wolf in a sheep clothing so them never like locks. Never like when the rasta man a talk facts. So we see the far eye and we no need contacts. Tell the queen don't feel the illegal tax. And America, yes, them feel leave all blacks. Police in helicopter, I search for marijuana. Policeman in the streets, searching for Hollywood. Soldiers in the field, searching for Hollywood. But if you continue to burn up the hearse, we gonna burn down the kings. But if you continue to burn up the herb, we gonna burn down the cane. Oh. Hai a tutti gli amici e tutti gli amici che se la fumano ascoltando Port Royal tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. The fire upon the system where you turn the marijuana for my inner victim. Straight from my heart, so my talk and my sing. When my advocate for the cannabis business, we no lip sync. No. Tell me what you think when you sip it in the drink. Are you blazing on the pink? blazing on the purple, make your eye them pink. But I couldn't bling, bling, bling, bling. Police in helicopter, I search for marijuana. Policeman in the streets, searching for colibri. To burn up the herb, we're gonna burn down the cane field. Oh, uh oh. Yeah, I said that never did know. Police in helicopter. I search for marijuana. È un big appone a tutti gli amici dei Kawasound, anzi agli amici dei Kawasound e di Reg Mania, tutti i giovedì o quasi tutti i giovedì dalle 21 alle 23 sempre su Pirate Radio. Combinazione speciale, na na na na na na na na na na, giomamo cookie la chiat. Fuoco brucia quando fai a domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina, brucia quando saci ma se mettia. Fuoco brucia quando fai a domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bellon bombo clas. Viene la danza Kuzmash per sentire la buona vibra che dà Ilario. Arriva la potenza della musica che nessun modo mi limita. Ogni giorno mi stuzzica la voglia di cantare, ballare, esporre la mia lirica. Mo amo, vogliamo, ve ne canisce l'amo. L'alba aspettavo, ve ne canisce l'amo. Senta buon original, fai a pom, Babylon. C champions. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando saci ma se mettia. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bellon bombo cla. Boom! Ogni guagliuna chi trova li senta. Ci piglia buono tutto e tutto quanto fomenta. Pur ogni femmina rimana contenta. Ho sciabato cuffata tu come palanca. Sì, sta musica c'è piaciuta. Dopo l'avevo sentita subito fa la piama amata. Poco dopo l'avevo conosciuta e imparata. Capita e rispettata. Anche corona super sempre conservata. Yeah. Tocco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Tocco brucia quando l'energia domina. Brucia quando saci ma se mettia. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bellon bombo cla. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Keep it fiat and while it out you. New tune. This is Signal 2023. Thank you, John. Listen up, Port Royal. Thank you, John. For the moment I rise, if you open my eyes, I'm free. Thank you, John. I give thanks for life and the blessings we see our next day. Thank you, John. Hail His Majesty, and I never ever stray. Now stop fast and pray. Militant chadding up, we step it one away. Yeah. Protection along the way, oh Jah. I no fear bad mind, me no fear, oh yeah. All them a war and a ease. What a piece of national teeth when Jah Jah take over. Jah give me the sight and the vision so me see it all out. World power make leaders fall out. Them no care for humanity, for vanity them fight all out. Thank you Jah. For the moment I rise, if you open my eyes and pray. Thank you Jah. I give thanks for life and the blessings we see our next day. Thank you, Jah. Hail His Majesty, and I never ever stray. Now stop fast and pray. Militant chadding up, you step it one away. Yeah. Give thanks and praises for ages and ages. We going through these phases. The test of time, the test of time. Have this strong on the journey, bearing your heavy load. Yourself and be proud. Egotistic, no make it in the district. Your works ever pure and mystic. So thank you, Jah. For the moment I rise, if you open my eyes and pray. Thank you, Jah. I give thanks for life and the blessings we see our next day. Thank you, Jah. Hail His Majesty, and I never ever stray. Now stop fast and pray. Militant chadding up, step it one away. Father, thank you. You make me willing and able. Put the food on my table. None of me pity no favor. Even when it seems so unstable, your blessing checks longer than cable. E visto che siamo in diretta, come abbiamo detto dal Branca, segnaliamo il gol della Roma. Dai Roma, dai. Il faraone Sharawi, il faraone Sharawi. Non mi ricordo se l'ho messo al fantacalcio. Dai Roma, dai. I give thanks for life and the blessings we see our next day. Thank you, Jah. Hail His Majesty, and I never ever stray. Now stop fast and pray. Militant chadding up, step it one away. Yeah. E torniamo in diretta, sempre reggae music qui su Port Royal. Non sempre reggae music, però in questo caso proseguiamo con un po' di reggae music direttamente dal Golden Globe. Kabaka, in questo caso insieme a Jemer Morgan, Grateful. Grateful for, not to be grateful, not to be grateful. First of all, I'm giving thanks to the highest creator. That's important in my estimation. Africa, when I listen, I see my inspiration. And for all of me ancestors before me pour the libation. Sitting at the altar, my ask for an altercation. With my family, my friends, and my closest of all relations. No for bad mind, and in my face, a salutation. If ovviamente, non era il Golden Globe, ma il Grammy Award. Best album reggae nel Grammy Award degli Stati Uniti, Kabaka. E come dicevamo prima, non è solo reggae music qui su Port Royal. None of them boy they catch at me, none for them song out the road, they not at me lyrics. Me chopping them tough like my agony, me do it properly. Them no suck up in me sloppily, look how me happily traveling. Just like a javelin, none for them bubbling. She a kid warrior wobbling, but them not bother with foundation. We were standing in solid like rock stone. Yo man on that like cockstone. Lyrics on melodies locked down. Like curfew when the sun drop down, we not pop down. Look for who they on the top now. When I get the greenness like Bob Joe. And my lyrics them never yet slack now. But your disrespect can get boxed down. Charge a billable time. Look for my team. Near one brother, and still by my side. Living the dream. Only for blood, not sweat, and tears. I've been through the money. We're still looking clean. We are the this one. We're in our teens. Never have nothing but still we believe. Thanks to the receive. Me when I send and I say what I mean. I know the money that's piling in. I'm looking around. I like the scene. Black excellence from left to right. I'm giving thanks for life. You see? Glad to be grateful. Glad to be grateful for. World Crisis, Million Styles, Don Carlos, Port Royal, that's it! Change it, I come when the troops gone. Go right now, too many get a youth gone. per combattere la crisi mondiale, secondo me ci vuole soltanto una cosa: No More War. OBF Junior Kelly, listen. Again, Mesh. E questo è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. 3, 2, 1, go! War, no more war. I will no want no more war. I me say war, no more war. I will no want no more war. Me say no drop no more bomb on my people. All war manga. Again, again, again. Violence of the seas. Shoot. That's strictly love we are dealing with. So hear this. War, no more war. I will no want no more war. I me say war, no more war. I will no want no more war. Me say no drop no more bomb on my people. No poison gas on my people. No bring no more famine on my people. A Babylon me say you wicked. Dieci minuti avremo al telefono Nerone. E intanto Pietro me la riacchiappa. Rieccola. Enter Loop featuring Charlie P, One and Only. Country bed, live in the city, friends with Bob Marley and Nitty Gritty, friends with the president and all the hippie, friends with some youngster. Oh, what a pity. Oh, well, me still love her. Chilling the night when me under the cover. Oh, she was there when me life rough. And no, said there is no other. Oh. Easy, my friend. seed. Yes, we sense it, ganja herb. Oh, this your thing, make me want go learn. Yes, sense it, herb, we ganja. So when me first meet her, whole heap a nickname, call herself Reefer, chilling with me brethren in a two-seater. Drop on the microphone and me say, follow the leader. Me I go tell you now what you all gonna need her. She kill off of the cancer, kill off of the seizure, kill off of the bad things, make you live cleaner. With me anytime on stage or arena, take two drops, me feel leaner. Say jump around the stage just like a ballerina. Drop on the microphone and me say fast like a cheetah. Say come closer, my señorita. Tell you now she was born a true leader. Look how she looks so pretty and greener. Love how she go and make me eye them a leader. Only chat love with me deaf on the speaker. Now we get deeper. We can't stop. Yo, so what? Dato che abbiamo ascoltato Enter Loop, come non ascoltare la nuova traccia uscita pochi giorni fa, General Levy, l'Enter Loop, People is Massive. Questo era l'Enter Loop con General Levy, l'ultima traccia uscita pochi giorni fa. E adesso invece proseguiamo Port Royal con Osh ai controlli, Alborosi for the culture. Culture. Hey, dato che, come ha detto anche lui stesso, Albo Rosi, I'm Italian, è italiano. Adesso andiamo ad ascoltare l'ultima uscita insieme a Piero Pelù, Musica Libera. Mille una nota mi girano in testa, polvere, ferro, vento, tempesta, cieli azzurri, nuvole, stelle, ballo, ballo e tutto s'accende. Ieri mi sentivo in cima a un grattacielo, oggi giù nel bunker sotto il piano zero. Quello che voglio sembra fake, invece è vero. E ci stai dentro tu, noi siamo come voi, voi siete come noi. La musica ci libera, scatena dentro un cinema, il cielo su di noi. Forse in te ci crederei, che la musica ci libera e tutto il mondo suona. Faccia, il mio ego lo cerco in un pagliaio, batto il ritmo, sono equilibrista, gioco a scacchi con l'incertezza. Le regine e i re sorridono, io non resto nel mio angolo, condividi se ti piace, scacco matto per chi tace. Noi siamo come voi, voi siete come noi, la musica ci libera. Eh sì, dovevate vederlo voi qui come se la cantava il nostro Pietro Pelù. Non era più Pietro Osh, ma Pietro Pelù. E adesso, tra poco, andremo a chiamare il nostro Nerone, ma intanto andiamo ad ascoltare una traccia insieme a tutti i miei compari. Compari sodi, mi sei. Compari, compari, compari, compari sodi. Compari, compari, compari, compari sodi. Compari, compari, compari, compari sodi. Compari, compari, compari, compari, compari, compari, compari, compari, compari, compari sodi. Compari, compari, compari, compari sodi. Compari, compari, compari, compari sodi. Compari, compari, compari, compari sodi. I funzioni del centro di qui compari sodi. Lo stile da Calabria, cavallo, stamore, rabbia e già sacca di ciscia. Sacra di ciccia, chiamare i compari, da i veterani. Se la supro, vengi giro. Mi sono usato pure che culi il pop. E ragamo fino alla giro marina. Che la programmata sul faccio di prima. Mi ne voglio, come on, come on. Me ne compariamo dentro sta song. Piccanti come sarte dei cariati. E siamo fuoco, come bruciati. Old school, ragamo fin calabrisi. Che lontano parco, canto pindu misi. Vende con l'accendina all'aria che svisi. Ficimo un pezzo di storia con Kento Simone Isi. Venta lontana, version con gli amici. Era figliolo cantava su lupi spisi. Usano tutti i canto cosifici. A me vuci e sta vuci sti paesi. La mia maniera, musica libera l'anima da ogni galera. Dire Reggio Calabria porto in alto la bandiera. Militante come nei tempi della pantera. Come speaker tu lo faccio da mattina a sera. Come un rastamanno ogni lirica è una preghiera. Sono black inside anche senza la pelle nera. Ma ormai lo sa non è una moda passeggera. Sono un massiccio senza collane in era. Innamoratissimo del gruppo Merighera. E ora impara questa strofa intera. Right? Compari Sodi, original rap ad upstyle from Calabria. Sì, faccio di te c'è di qui compari Sodi. Non ti lega Calabria, capato sta amore e rabbia. E già sì, sì, ci sento, ci sento. Di qui compari Sodi. Non ti lega Calabria, capato sta amore e rabbia. E già sacca di ciccia. Nessuno se ne offenda. Vengo dal passato che hai scordato, mi remember. Ti porto al futuro, segnalo uno sull'agenda. Se dici calafro ti rispondono leggenda. Se tocco il compari è matematico che urli. Suono wake the town, parecchi sound suonano nulli. Sempre resistente, non del Rick ribampugli. Detto onestamente, qua è evidente che da un pugno. Passano ridimo come re, calabra non su dove sei dance. DJ Willa pullo più again. Sento compare, se tutti uniti in una sola gang. Stile che spara e che ti fa bang. Senza pistole con liriche che cavalcano classici e slenzenga. Da mattina alla sera, dalla marina alla sera. Tenete forte casta crew con un tsunami arriva. Ti sa pappa saliva con indica più sativa. Mando giù con i compari fino all'alba arriva. Ed eccoci qua col compare Nerone. Ci sei? Ci sei Dani? Buonasera, buonasera a tutti. Aspetta, alzo un po' il volume della chiamata. Vediamo d'ora, prova. Hola, hola, mi sentite? Forte e chiaro. Forte e chiaro, perfetto. Ci senti tu, Neron? Buonasera a tutti, sì, vi sento forte e chiaro, come state? Bene, bene, bene, dai, dai. Siamo pure in compagnia, come dicevamo prima, dei ragazzi che tifano la S Roma. Tu invece sei a casa che stai tifando la C Milan. Bravissimo, bravissimo. Ricordavo bene, ricordavo bene. E stai a Firenze soprattutto. No, adesso sono in Calabria. Addirittura, sono ancora peggio. Vabbè, una buona parte Paola, di tifos- Paola Cosenza. A Paola, una buona parte di tifoseria milanista, interista, juventina, insomma, come al sì, sud. Come in tutte le parti d'Italia. Come un po' di più al sud, diciamo, dai. Comunque sia, come stai? Per il resto, che cosa ci dici, Dani? Tutto benissimo, tutto benissimo. Ci godiamo il vento di San Francesco qui a Paola, c'è un tempo di merda. Abbiamo visto però che hai fatto qualche serata che... anche giù. Sì, sì, sì, quelle al chiuso le sto riuscendo a fare, poi da domani iniziamo con quelle all'aperto perché dovrebbe arrivare il bel tempo. Dai, speriamo, speriamo, anche qua si prospetta bel tempo a Roma. Comunque sia, bene. Parliamo questa sera proprio della nuova uscita di questa produzione di Nerone Empire, All In, volume 1, una raccolta di riddim con produzioni completamente tue, e ci sono sia canzoni tue, prodotte, cantate, scritte e quant'altro, e sia produzioni con altri artisti. Come, diciamo, come parlaci un pochettino di quest'album, come è nata pure la collaborazione con gli altri artisti. Se senti un po' di confusione, la S Roma. Vai tranquillo, vai tranquillo. Ma siamo in fine primo tempo, quindi. sì, vai, allora, è un po' che volevo fare una compilation non con un solo riddim, ma un po' più carica, dato che adoro fare e toccare più stili. Partendo dall'hip hop, col quale sono nato e cresciuto musicalmente, ad arrivare al reggae, ma toccando pure la dancehall e l'afrobeat, quindi volevo fare una cosa più completa, per quello ho scelto di pubblicare questi quattro riddim, è coinvolgere un po', dare pure più scelta anche agli artisti, perché sai, ne fai uno e ci sta poi che a un cantante non piaccia, se gli dai più scelta. Infatti è stato molto più easy raccogliere 9 artisti oltre me, che siamo 10 in tutto, quindi non è stato difficoltoso, non ci ho messo neanche tanto, sarà che sono tutti bene o male amici e fratelli. Ed è stato, sono stato veramente soddisfatto del prodotto, di come è uscito, e di tutto, della reazione, pare che è piaciuta comunque come compilation, sono piaciuti i ritmi, sono piaciute le tune, gli artisti ci credono nelle tune, Ganja Vox ha già fatto subito il video, cioè belle cose. Sì. Poi ovviamente se si mettono a cantare sul rhythm di sicuro vogliono spaccare tutto, no? Come d'altronde anche tu, penso, dall'altro lato, se ti propongono un rhythm pensi solo a spaccarlo quel rhythm, soprattutto se sì, di un amico. È chiaro, è chiaro. Se di un amico. Come? Soprattutto se di un amico sì. è collega, passami. Sì, il termine. A voglia. Quindi ci sono artisti di tutta Italia presenti qua sull'album. Parlaci un po' di sì. Tutti. Da Marconi, allora, ci sta solo un giamaicano che è Puppa Jarno. E poi sì, per il resto ci sta Marcone Bomba Bomba, Marquan da Pistoia. Ci stanno dal Salento, ci sta Stefanocciolo, Flavio Ghetto Eden e Ganja Vox, poi ci sta il Cisco da Lucca, e ci sta Shark MC da Benevento, ci sta Gamba de Renk da Milano, chi mi manca più? C'è Fablo Sid, che è un ragazzino e collega paolano, sì. Che sta a Parma. Ho ascoltato la traccia, molto, molto carica, bella. Spacca, il ragazzo spacca, fa il rap cazzuto alla vecchia maniera, è un grande freestyler, quindi se la giostra bene col linguaggio, la dialettica e le rime. Non dovrei aver saltato nessuno, se vedo saltato qualcuno? No, non mi sembra, mi pare che li ho detti tutti. Tutti, sì, le hai nominati tutti, da nord a sud e anche all'estero. Manca forse sì. Solo le isole, se non contiamo quella parte di Gamba de Lenk, no? Di provenienza, di origine del sì, sud. Sì, infatti. Se no mancava infatti, nord-sud. La prossima volta avevo coinvolto anche qualcun altro, poi chiaramente c'è chi non ci riesce coi tempi a mandarti il pezzo, c'è chi magari non gli è piaciuto nessun rhythm, ci può stare pure, quindi anche se dai, alla prossima magari vediamo di coinvolgere tutte le regioni. Permettimi se ti interrompo, diciamo hai scelto però l'isola che ha fatto nascere questo movimento, quindi non ci sono le isole italiane ma c'è l'isola giamaicana, dato che c'è il giamaicano sì. che ci c'è canta la principale, che dai. Rhythm, no? E adesso andiamo ad ascoltare le prime 4 tracce, così di un rhythm singolo questo qua. Abbiamo fatto un po' un mix, così abbiamo tempo di poter fare l'intervista, tu di vedere la partita e siamo stati proprio, abbiamo fatto tutto ad hoc. Quindi andiamo ad ascoltare intanto le prime 4 tracce, poi ci fai un po' un riepilogo delle 4 collaborazioni. Andiamo ad ascoltarle, quindi... Listen! Ciao compare, tu sei il DJ? Ciao compare, sì. Piacere, Francangelo. Piacere. Ma tutti mi chiamano Schweppes. Piacere, io sono... Sì, anche io faccio il DJ a tempo perso, insomma, però anche produco, canto, insomma, un artista 360, anche se nella vita lavoro con mio papà nell'azienda di famiglia. Wow, okay. Stasera mi raccomando, fammi divertire, mi devi suonare assolutamente quel pezzo di Cenzino, Fantone e Giovanni Marley. Mamma mia... Arrivo al primo locale, diretto e tranquillo ma con fare blando. Si attacca addosso ed è subito al collo fin da quando monto l'impianto. Ma come faccio per dirglio comunque, per fargli capire con modo pacato che lui continuando a parlare così mi sta solo deconcentrando. Mi fa richieste ancora prima che accenda le casse, delimita il suo territorio come fa un Jack Russell. Mi dice sai per la Giamaica ci esce faz, Giamaica sì, Giamaica no, Giamaica cadu cazzo. Compare mio, vatte piglia una bironata così vive che pago io. Basta che ti allontani 5 minuti da qui, porco di zio. Se già cominciamo a così, la sussulino brasir, me venete dice addio. Io che stasera bevo tanta sete di dancehall, questo mi sventola il bicchiere sopra la console. Mi parla di rispetto perché ha più anni, ma per l'attrezzatura a me che cazzo paga i danni. Ehi DJ, DJ, mi metti quella lì. Scusa, sono un bronzo e non ricordo di chi. Ehi compa, ma guarda come stai. Io sono un DJ, non sono mica Spotify. Ehi DJ, mi metti quella là. Scusa, sono un bronzo e non ricordo come fa. Ehi compa, ma weird come sta. Mi sa se fa calura che dai a curta. Erroni Empire. See the general with them send fire. Original Poopayan, you know the thing, man. The whole Italy massive states, the whole Europe, the whole world. Ready? Him no get it, don't let him in. Where my go? I smell a stench. And you can't fix with a wrench. Hold a show and get yourself cleansed. Me say no come in at the dance. If you're not a van roll am, you must see a promote molly am. Your yarn and fly a swam. Hey, you ever beat from your van? Better if you pack up and go on a your yard car. Your face no wash and me say, take no brush. You lose it tile it and bet you say it no flush. And in a the bus and we say in a the bus. Eh eh, your arm a kick up from bus. Nobody come in at the dance. The dance. If you're from CPP, no bother coming at the dance. I wanna smoke off of me sense. No bother coming at the dance. If you're from Z, no bother coming at the dance. And I beg no money. Ha ha, Mr. Funky Pablo Seed, Neron Empire. Combination, sì, e me ne sbatto fra, e me ne sbatto di sta para, na na na, io me la canto e faccio na na na na, fin quando non sto chiuso in bara, na na na. Me ne frega proprio niente che doga pensa alla gente, brucio paranoie come spliff di sensi miglia. Quando scrivo viaggio a mille miglia con la mente, per allontanarmi da ciò che non mi assomiglia. Io per evitare che mi cachino la minchia, mi dovrei imboscare in tramontagna con una griglia. Senza più pensare a quello che mi terrorizza, proverò ad immaginare un mondo senza alcuna rissa. Ma purtroppo questa qua non è la mia realtà, circondato da troppa disparità. Odio l'odio che dilaga in strada, vince chi fa più l'infame, teste umane senza umanità. E quando capita la rabbia scarica dalla penna come una calamita, le dita sulla tempia fanno ram pam pam, faccio ram pam pam. Senta buono come spacca funky, power move sulla faccia break, vaffanculo ma ti piglia scaffi, per le volte che pisciato il rap, scorzi culto picchio come un bullo, lascio segno un quello proprio sopra il neck, frati rullo sei un bebè ti culo, frappe che mo frullo, nero DJ Bless, tu che fai spari palle, tutti quanti lo sanno è un blef, ti distrai scrivi barre, chi le ascolta poi esclama bleh, in freestyle devo darle, a chi si vanta di essere un re, un messaggio da Marte fatti da parte frate mo tocca a me, yeah! Inutile pressarmi se sto in bolla, se non sono stato chiaro lo sarò stavolta. Scrivo il rap a tracce quando cazzo ne ho voglia. Se voglio fare il rap lo faccio quando ne ho voglia. Faccio un paio di due mio original foundation. Primi a passarmi mi, io non me scelgo. Catta va a venire alla mose solandese. Belle cose, ogni dance presenti fissù in ogni dove. Gara per le ciun più nuove, coi compari sì è come una sana malattia, né dottore né ragione. Conosciuto fissati di ogni regione, rispetto a chi lo fa con amore, come compare, ma l'unerone è davvero un fratellone. Condiviso tanta vibrazione, più di un'occasione va bene lì san voi, prima brave persone. Questa è la musica che a me batte de intra, lo schermo casto, mondo me filtra, una cosa che sempre riesce e me conforta, di che tu vibes e mente dai sempre aure tanta. Questa è la musica che a me batte de intra, lo schermo casto, mondo me filtra, una cosa che sempre riesce e me conforta, di che tu vibes e mente dai sempre aure tanta. Ed eccoci tornati, abbiamo ascoltato le prime quattro tracce di All In, i DJ proprio del nostro Nerone, No Bada, Puppa Jarno, Me ne sbatto di Fablo Seed e Il Cammino di Stefanocciolo. Quindi parlaci un pochettino di queste tre tracce, vabbè la tua ne abbiamo già parlato anche per la presentazione dell'album. Invece le altre tre produzioni come sono nate? Spiegaci un po'. Ma è come appunto, come dicevo prima, ho cercato di mandare a tutti gli artisti, amici che apprezzavo, sì, oltre che nella vita musicalmente, gli ho mandato le basi. Quindi queste sono appunto quelle che hanno scelto questi artisti. L'Entertainment Rhythm, appunto, è stato scelto dal Puppaiarno, è quello che in effetti ci stava di più, perché lui fa abbastanza sto stile qui, reggae classico e sì, dancehall, quindi col giamaicano Nubada Coming at the Dance ha fatto il big tune, secondo me. Sì, esatto. Pablo Seed, essendo parecchio hip hop alla vecchia maniera, io ho cercato appunto nella base di raggruppare sia il campioncino del rhythm classico risuonato con la batteria hip hop, quindi lui si è incastrato alla perfezione. Stessa cosa per Stefano Mocciolo, venendo da quella scuola salentina dell'Uragamuffin, e c'è calzato a pennello anche lui. Io ci squazzo, come diceva un uomo chiamato Abbatantuono, ci squazzo dentro. Ottima citazione, anzi citazione perfetta in questo caso, no? Comunque sia, i tre artisti che hai aggiunto, vabbè, anche tu in questo caso, quindi hai inoltrato a loro vari rhythm e hanno scelto poi quello che sentivano di più, o sei stato tu, diciamo, a indirizzargli dei tipi di rhythm No, li ho lasciati liberissimi. Oddio, ti dico la verità, ci deve essere stato qualcuno, forse, a cui ne ho mandato uno solo, perché sapevo che era quello lo stile suo. Che li spacchi. Può essere, magari. Tipo, sì, anche il giamaicano stesso gli avrò mandato questa qui e quella ragamuffin, il No Problema, credo. Sì. Magari quella hip hop gliel'ho mandata proprio. Oddio, magari gli piaceva anche, faceva il big tune, però per il resto l'ho lasciati liberi, dai. Ok. E adesso quindi andiamo avanti e ascoltiamo le altre tre tracce, in questo caso su un altro rhythm sempre presente in All In volume 1, vabbè, poi ne parliamo dopo, perché penso ci sia qualcos'altro dietro, ma teniamolo caldo per penso. Dopo andiamo avanti. Listen. Da lontano vieni verso di me, mi si illuminano gli occhi come lampade a LED, palpitazioni come dopo 7000 caffè, allora prendimi, baby, sono tutto per te. Mi fa impazzire quando ti muovi e danzi, chiunque ti si avvicini, ma lo modo lo scansi, dovunque vai, si aprono le strade dinanzi, la mia temperatura corporea subisce sbalzi. Sei la principessa indiscussa, prospi all'attacco ognuno con la sua mossa, chi propone un drink con una scusa, ti si avvicina con in mano una rosa rossa, e mentre tu non li caghi neanche, mi fissi negli occhi muovendole anche. Non c'è competizione per le altre, sai benissimo come giocare le tue carte. Baila, baila, baila mia regina, per me sei vitamina, il tuo profumo lascia la scia, inebria l'anima mia. Baila, baila, baila mia regina, per me sei vitamina, il tuo profumo lascia la scia e non va più via. Gangia box, dillo ancora un'altra volta. Gangia box, sembra di stare in Giamaica. Pianumo, qua decido nubi strada e chiaro no. Lì c'è ancora, si sparano, cambiano. Ci dimesce questa roba, cantamo. Questa è tutta un'altra cosa. Gangia box, visto su e non va una rota. E chiaro mo, voglio la rega si sposta. Hey! Questo qua non è che un periodo, sta vita è di tossica, sento il pericolo. Ci non pigli i pensieri di ponta, l'usaga sono loro, li primi che sopprimono. L'energia di Livagnoni sta bloccata, vanno a chiamo solamente l'umodo che si esprimono. Acqua bascio non c'è nulla, non c'è spazio, non c'è niente. Sinna ben chi uno che gridano. Se l'usaccio vuoi colpare sta pazzo grande, e la musica la porto sugli spalle. Grazie a Dio sono diventato padre, e mi custo che combatto per le strade. Ehi, ancora per le strade, oh sì, per le strade. Io combatto per le strade, meno fuoco sulla base. Sta musica libera di chi, e mi custo che mi faccio portavoce. Dai voce, invece mostri che brindono, briachi felici, ma è chiaro che fingono, le città le dipingono, ma non quadro fuoso, mercanti non convincono, tempi duri starriono, e con la musica che passa un messaggio stacidono, quasi perdo ogni stimolo, e vi custo che scrivo ancora, perché ci credo. Real Sound Boy from the one, io se mi nomi se panni controlla, io dice questi vibes all night long, aspira il tango on the track. Quantity time, me have to spend, keep the level higher, we step in on the girls. Flash the lights like a girl, I'll take you far from the corner. We dip on the sky, we lash the harder. And the cats in my office, ha. Who am I? Yes sir, me the boss. No for them I know how me feel so nice. And the king is coming up with the doors. Tell me why you're looking for love. We got a bag of vibes. We give you paradise. We can fly like a top, can't to step out to the moonlight. Tell me why you're looking for love. We got a bag of vibes. We give you paradise. We can fly like a top, can't to step out to the moonlight. Oh, we oh, we oh, we got more like how you feeling it. Oh, we oh, we oh, we come to keep your eyes open ready. E qui abbiamo ascoltato invece Nerone con Regina, Rocky G Vox portavoce e infine Cisco con Dance All in the Night. Diceva intanto per pochi che c'è una versione però vietata ai minori e non si può passare in radio, eh? Solo su Radio Maria abbiamo detto, giusto? No, infatti assolutamente è solo live, è solo live, solo live oppure su Radio Maria. Ma sempre live, capito? Sempre live, anche sempre, anche sempre live, come siamo noi qua in diretta dal Brancaleone con Port Royale insieme a Nerone, e stiamo presentando l'album All In volume 1, una raccolta di tuoi riddim dove vari artisti cantano su. Qui abbiamo ascoltato altre tre tracce, un totale di 13 tracce, se non ricordo male, aiutami tu in caso se sbaglio. E oltre sì, a tre... sono tre, perché io essendo superstizioso alla fine mi escono sempre o album da 17 o da 13. Ah beh, ognuno ha le sue, giustamente. Noi non siamo scaramanziosi o scaramanti. No, io sì, è quello il bello, capito? Io sì, però poi alla fine dico vabbè, va, sfidiamo la sorte. Ma sti cazzi, come si dice in Francia, no? Ma sì, infatti. Comunque in questo album troviamo vari artisti, oltre a quelli che abbiamo ascoltato c'è anche una traccia che abbiamo già presentato qualche mese fa con lei, una traccia che parla della notte, tu a musa ispiratrice. In questo caso andiamo ad ascoltare un'altra canzone, un altro artista sul tuo riddim, dato che abbiamo già presentato la traccia, andiamo ad ascoltare MC Shark, che mi dicevi arriva da Benevento. Anche lui per... Shark MC, perdonami Shark MC, la correzione, no. Shark MC, scusami, da Benevento tu, perdonami Shark MC se ci ascolti, chiedo venia. Andiamo ad ascoltare quindi adesso microfono e console, Shark MC. Boom. Se prendo il microfono in mano, fratello, già se non c'è competizione. Pompiamo da tempo sto rap, applicandoci con dedizione. La base l'ha fatta Nerone, il flow ce lo mette lo squalo. Qui scatta l'allerta arancione, tocca mettersi al riparo, perché ogni rima qua è un proiettile. Tu metti che vieni a fare una battle senza metriche, credendo che con le tue barzellette un po' patetiche davvero puoi competere. Ripassati le regole di come ancora giù da me. E che sto babbo che ancora sa fede solo, pure si sta chi ne canna che da lucca n'angura. Goppa non ridi ma si ci scatena folle, questa buona noi ci basta un microfono e console. E che sto vapo che ancora si fede in sol, pure si sta chi ne canna che da lucca n'angura. Goppa non ridi ma si ci scatena folle, questa buona noi ci basta un microfono e console. E ma ne sa da casa pare, ma ne sa da casa pare, ma ne sa da casa pare, ci pensa da letta me. Ma ne sa da casa pare, ma ne sa da casa pare, ma ne sa da casa pare, ci pensa da letta me. Ma ne sa da casa pare, ma ne sa da casa pare, ma ne sa da casa pare, ci pensa da letta me. Ma ne sa da casa pare, ma ne sa da casa pare, money side the gas of body. Oggi si atteggiano a grandi, troppi poppanti, tutti influencer, tutti guru, tutti MC, tutti cantanti, almeno finché non ce l'hai davanti. gli occhi e sgami, quanti real e quanti fake, troppi. Vivo nel mondo reale in cui repare, pare non si porti più. Faccio più numeri sui beats che su YouTube, e questo lo sai pure tu. Perciò ci apprezzi, che poi agli eventi in fondo siamo sempre gli stessi. E che sto papo che ancora so fede in sole, pur si sta chi nei canna che da lucco non vuole. Goppa non ridi ma si ci scatena folle, per sta buona noi ci bastano microfono e console. E che sto papo che ancora so fede in sole, pur si sta chi nei canna che da lucco non vuole. Goppa non ridi ma si ci scatena folle, per sta buona noi ci bastano microfono e console. E ma ne salta ca se pare, ma ne salta ca se pare, ma ne salta ca se pare, ci pensavo da retta a me. Ma ne salta ca se pare, ma ne salta ca se pare, ma ne salta ca se pare, ci pensavo da retta a me. Ma ne salta ca se pare, ma ne salta ca se pare, ma ne salta ca se pare, ci pensavo da retta a me. Ma ne salta ca se pare, ma ne salta ca se pare. È quasi un mezzo mantra questo ritornello di Shark MC, microfono e console, che abbiamo ascoltato sulla traccia dove Nerone ha registrato invece con lei, dedicata alla notte. Questa, aspetta che ti rimetto live, perdonami, eccoci qua, è tornato live. Ehi, anche il nostro Daniele Nerone. Sono tornato in vita. No, è tornato alive. L'abbiamo rianimato bene, dai, siamo stati bravi noi. Sì, ci siamo riusciti. Comunque sia, questa traccia, dicevamo nel fuori onda, che è molto potente, ha un doppio ritornello, versione italiana, versione spacca, dialettale, spacca davvero come spacca traccia. Tu hai anche l'amore per l'hip hop. Assolutamente. Quindi come ti trovi a collaborare con altri artisti che amano questo genere? Oltre che all'hip hop, perché sentivo, parla anche di dancehall, quindi fa un po' di dancehall anche lui, durante questa traccia, in senso, un po' di stile dancehall. Sì, in questo, sì, perché lui fa praticamente, cioè, hip hop, però ci conosciamo, quindi sa comunque la mia provenienza. Poi, sai, l'hip hop non è tanto distante dal mondo reggae. Sì, esatto. Quindi quando poi si trovano, per me è una connessione pazzesca, quindi cioè, esplosiva. Sì, dovrebbero fare più produzioni, secondo me, in Italia, miste. Di hip hop e reggae. Intanto ci penso insieme. Io, vai. Esatto, intanto ci sei tu, oltre a te dico, dovrebbero pensarci di più, perché parlavo l'altro giorno con un amico giù, che sono sceso nel periodo pasquale, Nicola, Natale, un po' di tutti. Comunque sì, capisco. Battuta squallida. Comunque sì, mi diceva, io artisti reggae qui nella zona non ne trovo, trap quante ne vuoi, ma reggae niente. Io amo fare reggae, mi portano i soldi quelli che fanno trap, ben venga, però vorrei fare una buona produzione reggae e anche mischiare le due cose, no? Qualcuno che fa hip hop dice dagli una produzione reggae e provare a farlo cantare super. Nulla, vogliono tutto il mainstream, ormai vogliono essere tutti mainstream. Diciamo che non ce n'è trap, diciamo. No, proprio zero, niente. Non è una trappola sta. Ce n'è poco, no trap. Vabbè. No, poca trappola. Però andiamo avanti, questa qua invece andiamo ad ascoltare le ultime quattro tracce presenti sulla volume 1 di All In. Queste sono molto più dancehall e andiamola ad ascoltare. Listen! Original Lura come fine Lusalent da Paola Town in combination con che tu e danzettamo che come no Ragamuffin Dancehall Nerone Empire All In volume 1. Listen! E non te fermi più. Muoviti, girl. No, non te fermi più. Muovile, muovile. Non te fermi più. Muoviti, girl. No, non te fermi più. Lunerone con lui Flavio, lui giusto ritmo portiamo. Quello che è fondamentale, che non te puoi mascherare. L'energia che è positiva se sente quando la musica ti è fatta con lui cuore. Sbaglio lo spirito giusto, no? Come mi gusta quando i già balla così. portami la musica, sulla mente la musica, tutte le mattine come tutte le sere. Ballamore, non te fermi più. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, girl. No, no, non te fermi più. Muovile, muovile, muovile, muovile. Ballamore, non te fermi più. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, girl. No, no, non te fermi più. Muovile, muovile, muovile, muovile. Ballare, bombo crat. Bella storia, bombo crat. Che culo che ha avuto, bombo crat. Bombo crat, bombo crat. Come fa? Se devo dire una cosa bella usando solo una parola, ti dico bombo crat. Se devo dire una cosa brutta usando solo una parola, ti dico bombo crat. Bombo crat, guarda quella macchina là, sono gli sbirrici, stanno aspettando. Bombo crat, presto fuori gira di qua, che facciamo una strada che sa solo mi fa. Bombo crat, quelli ci sono già dietro. Bombo crat, la sirena che suona. Bombo crat, documenti alla mano. Bombo crat, ti faccio bombo crat. Bombo crat. Buonasera. Buonasera, mi scusi, ma lei lo sa dove abita il mio amico il generale? Bene, vado, vado, proseguo ad andare, potete andare, tutto a posto. Se devo dire una cosa bella usando solo una parola, ti dico bombo clat. Se devo dire una cosa brutta usando solo una parola, mi saluti il suo amico il generale. Se invece dico una cosa non mi viene in mente la parola. E anche qui su Port Royal diciamo bombo clat. Bombo clat, ciao Gene. Bombo clat, bombo clat. Ti presi male, ma la pena non vale. Non arrivi vicino, ma se ti fermi sulle scale, la rabbia fa male, meglio liberare. Andiamo a bere male, in un palamare. Se c'è un problema che si fa, una birra. Ci passo su babistica, una birra. La vita corre se ne va, una birra. A tutta birra, a tutta birra. Se c'è un problema che si fa, una birra. Ci passo su babistica, una birra. La vita corre se ne va, una birra. A tutta birra. Voglio soluzioni pratiche, non polemica. Voglio spendere energie preziose in banalità. Invece che arrabbiarti molto forse meglio ci sta. Che ti stappi una birra e ti senti una star. Non le voglio le persone che mi succhiano energia. Non mi piacciono le cose che mi tolgono allegria. Non le voglio paranoie che mi danno ipocondria. Non mi stappo una birra alla tua, alla mia. Se c'è un problema che si fa, una birra. Ci passo su babistica, una birra. La vita corre se ne va, una birra. A tutta birra. C'è un problema che si fa, una birra. Ci passo su babistica, una birra. La vita corre se ne va, una birra. A tutta birra. A tutta birra. Hey yo, non ce lo represent Finarone Empire. Sale un problema di team Calabria. Assumi i cantieri ed è così. Dimmi elenca quanti sono tu i mestieri. Hai di danzare se te guardi in un cantiere. Coreografie si alternano con cicoglieri. Puttini di pittori o lì da pensieri. Rappresento la gente che ha fatia forte. Incontri di giorno alle mani sporche. Sull'andi te, ponte su ponte. Pronti, siamo un puzza appena non sulle sorge. Rappresento la gente che ha fatia forte. Incontri di giorno alle mani sporche. Sull'andi te, ponte su ponte. Pronti, siamo un puzza appena non sulle sorge. Una caccia celebrativa, retro gusto di sativa. Sulle sicca la saliva, mentre il cazzero la sciva. Prepara una cantanina, devi dimmi se combina. Questo foca un pastamo e poi ti come un cira. Qui sta gente cade mattina. Pete a terra e vai cammina. Ma sul con la giusta combinazione di caffeina e nicotina. Rappresento la gente che fa ti a forte. Incontri di giorno alle mani sporche. Sull'andite, ponte su ponte. Pronti, siamo un puzza appena non sulle sorge. Ce rappresento la gente che ha fatia forte. Incontri di giorno alle mani sporche. Sull'andide, ponte su ponte. Pronti, siamo un puzza appena non sulle sorge. E torniamo subito in diretta con Nerone. Abbiamo ascoltato le ultime quattro tracce presenti in volume 1 di All In. E non, ovviamente non abbiamo fatto delle tracce remixate in maniera rapida perché non ve le volevamo fare ascoltare, ma perché volevamo mettervi la pulce nell'orecchio. Dovete andare ad ascoltarle tutte adesso. Potete trovarla sui digital store. Dici tu dove possono scaricare questo volume 1 di Olin? Dovunque, dovunque, tutti i digital store, le bancarelle delle fiere. Anche dai cinesi si trova ma non la domenica solo, fuori la chiesa i market dei no, a parte gli scherzi, dai, su tutti i digital store lo possono trovare, anche su YouTube da ascoltare, insomma ovunque, basta selezionare Nerone Empire Music All-in volume 1 oppure i titoli delle tracce, possono trovare ovunque. Non lo so, non sei tra quelli fighi che c'hanno il link in bio? Porco bio ci ho scritto io. C'ho qualcosa ma poi non riesco a starci dietro, quindi anzi seguitemi sul social nerone.original, nerone con due o di stupore, di doppio zero, di quello che volete. esatto. E ringraziamo comunque sia ancora Nerone per aver presentato qui su Port Royal Pirate Radio il suo album, chiamiamola raccolta di Riddim, All In volume 1. Cosa ci aspetterà in futuro? Il volume 3 direttamente. Bomboclat, come dice Marcone, bomba, bomboclat. Sai, mi ha fatto venire un'idea, quasi, mo faccio direttamente il volume 3, il 2 lo faccio poi alla fine. Ma che cazzo, fai come Star Wars, fai 6, quant'era, 4, 5, 6, poi fai 1, 2, 3, poi fai 7, 8, 9, e in mezzo gli metti quindi gli già l'hanno fatto. Star Wars però il film, non l'avesse fatto già nessuno. No, però è un film, non nei volumi di raccolte di Riddim o album. Dai, allora si può fare. Intanto che sono sputtanato l'idea in radio adesso. No, non ti ha ascoltato nessuno. Lo devo fare stasera. Solo qualche milione di ascoltatore, speriamo, da un lato. Tagliala. Questa la taglia, la cancelliamo così nel podcast non si sente. E sei contento di poterlo riascoltare anche tu insieme a tutti gli altri su archive.org. Ricordiamo che tutte le puntate sono presenti lì. Comunque ti volevamo salutare, così vai a ritorni a tifare la tua squadra del cuore. Almeno gli ultimi 20 minuti te li facciamo vedere, dai. No, gli ultimi, io ho messo tutto in pausa, quindi non so nulla. Io me la rivedo, nulla. Quindi vi saluto, vabbè. Assolutamente. No spoiler. Sono rimasto alle 10, io, per me sono le 10. Vabbè, okay? No spoiler, va benissimo. Non abbiamo neanche visto, però neanche ti diamo degli spoiler. Comunque sia. Vai, va bene. Volevi ricordare qualche appuntamento che hai, salutarci, fai un po' tutto tu, dai Dani. No, non vi voglio salutare perché mi state antipatici. Allora, domani 4 maggio, DJ set dalle 10:30 sul lungomare di Paola alla gelateria Beniamino. Tipo una sorta di block party praticamente, perché c'è la fiera nel mezzo, la fiera di San Francesco di Paola. Si ritorna alle origini. C'è un bel macello di gente. Yes, dopodomani ad accompagnare una cena in un ristorante di pesce e pizzeria a Guardia Piemontese, sempre provincia di Cosenza. Poi giugno e luglio, dai, un po' in giro, dai, finché non sono ufficiali non dico nulla, però un po' in giro in Italia, dai. Dai, però domenica su Radio Maria, eh? Sì, quello sempre live. Con la versione alive. Alive, con la versione alive. In croce. E allora, perdonatemi, mi è partito dopo aver fumato un piccolo jointellino. Mi è arrivato a me, mi è sputato nell'occhio. È Covid. Ma ormai è passato. Comunque sia, volevamo salutarti facendo ascoltare a tutti gli ascoltatori di Port Royal. Quanto cazzo sono professionale delle volte, perdonatemi. Yeah. Ascoltiamo delle canzoni sia hip hop che reggae che ti hanno, diciamo, segnato nella vita, dato strada nel tuo percorso artistico. Quindi assolutamente, sono tra i oddio, a parte quella di Kepleton, che è una nuovissima uscita, ma appartiene a quello stile che mi ha segnato. Le altre sì, mi hanno segnato praticamente in tutto e per tutto nella vita. Quindi ve le dedico, vi saluto tutti gli ascoltatori, bella Port Royal, Piratai Radio, smash, bam! Grande Nerone, c'è pure Osh qui che ti saluta. Bella Nerone. Bella Osh. E Otello ti saluta a distanza di sicuro, adesso è al lavoro, poverino. C'è chi deve portare grande il pane Otello a casa qui, ragazzi, bravi. Grande Otello. Grande Otello. Grande Nerone, grazie ancora per aver presentato qui All In e ti lasciamo al tuo tifo scatenato. Un abbraccio Dani, grazie compare. Ciao ragazzi. E andiamo ad ascoltare quindi subito live la canzone Sky's the Limit di Notorious B.I.G. Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed. I like this young man because when he came out with the phrase, he went from ashy to classy. I like that. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had 2 pair of leaves. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. While niggas flirt, I'm sewing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? I see you later. Here come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow! Why you punch me in my face? Stay in your place, play your position. Here come my intuition. Go in this nigga pocket, rob him while his friends watching. That hoes clocking. Here comes respect. His crew's your crew, or they might be next. Look at they man eye, big man, they never try. So we roll with them, stole with them. I mean loyalty, niggas bought me milks at lunch. The milks with chocolate, the cookies, butter crunch. 88, Oshkosh and blue and white dust, ask slut. Sky is the limit and you know that you keep on. Just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can keep on. Across. They depicted me the boss. Of course, my orange box cutter make the world go round. Plus I'm fucking bitches ain't my homegirls now. Start stacking, dabbled in crack, gun packing. Nicknamed Medina, made the scene, took my Nina. From gym class to in glass, passed off for global. The only nigga with a mobile. Can't you see like total? Getting larger and wasting taste. Ain't no telling where this felon is heading. Just in case, keep a shell at the tip of your melon. Clear the space. Your brain was a terrible thing to waste. 88 on gates, snatch initial nameplates. Smoking splits with niggas. Real life, beginner killers. Praying God forgive us for being sinners. Help us out. Sky is the limit, and you know that you keep on. Just keep on pressing on. Sky is the limit, and we know that you can have what you want. Spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente come mai. Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei. Cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me. Al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano eppure se fa strano. Io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene. Quel che è stato è già passato. E mo' è passato se lo tiene. Piove già da un tot. La pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò. Perché so che il tempo è ciclico. E so che un po' di tempo è quello che ci vuole. Mentre un guaglione sta scacciando il male. Sta aspettando il sole. Oggi non c'è sole intorno a me. Un'impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male. Ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta mo' che sono nel ciclone? In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole. Oggi non c'è sole intorno. Yeah. fa con Aspettando il Sole, prima come dicevamo Notorious B.I.G., Sky's the Limit. Questa era la parte hip hop che ha dato vita, diciamo, alla parte artistica di Nerone, mentre per quanto riguarda la parte reggae andiamo ad ascoltare Sud Sound System insieme ad Africa Unite, Cerca in Talucore. Il fuoco ridà i contorni del buio, come corda che lega ma non stringe più. Un incontro rapido che fa straripare nella mia mente, brividi e passione assolvono le colpe che ho. Non andare via, rimani qui stanotte. Non parlare più, so cosa pensi. Non sei sola, cerca dentro te. Lucy sola, c'è calore come lo vorrei. Sì, come l'uglia che ho qua. Non sei sola, sotto la cenere si sta svegliando. Quel calore ci scotterà. Mo senti a me, ehi, te senti a sola, ma non si sola. Guarda dai in giatti e poi a bessire sincera. Non stai a sola, non te sentire sola. Cammina innanzi a me, non fa basta stasera. Nasce del nu calore, comunque giocali a voi. Sutta la scena del fuoco, cane scarpa siete voi. Vicino a me, che ho a te qua e tutte e due. Non te sentire sola, chiama a me, non me ne ho più. Non sei sola, cerca dentro te. C'è calore come lo vorrei. O si ne muoia qua, come la roccia del fuoco ne consumamo. Arde il cuore e i pensieri catenimo. Scarpando lo tempo della notte che passa piano piano. Tecchi sulla luce con ne capimo. E non c'è che buio con ne sconimo. Qui ti casimo quando tutti e due ne amamo. Delle paure catenimo ne scuiamo. Così insieme su momento lo vivimo. Bueno. Con la passione forte che ne face impacire. Purtroppo all'unca mille cose non stanno a scire. Emozioni con parole non si potono spiegare. Poi se stiamo insieme si potono capire. Usando sto momento per l'amore. Facciamo questa notte una notte speciale. Se non voglio qua usando sto momento per l'amore. Uniti in cianna sulla cosa con piacere. Non sei sola, cerca dentro te. C'è calore, come lo vorrei. Senti me moi, cercami in cialucore. Castau sempre già che cerco calore. Qui gioca sulla mente che me sai dare. Qui gioca finalmente mi ha fatto capire che nulla distanza mi può separare. Case chiudo le chi già te posso toccare. Tu c'è provi e c'è puoi pensare. Quando stai sulla cerca mentre all'ucore. Non sei sola, sotto la cenere si sta svegliando. Quel calore ci scotterà. Pensi di essere sola, ma una luce ti illumina il cuore. Essa ti dà la forza quando pensi di non poterlo fare. Scopri di avere un sentimento che come un vento ti trascina via. Scopri di avere un sentimento che come un vento ti trascina via. 1997, Non sei sola, Sud Sound System featuring Africa Unite e Cerca in Talucore. Adesso passiamo agli anni 2000, sempre Africa Unite, queste tu. Mentre stai chiudendo gli occhi, mentre scavi dentro te, e il rumore si dissolve senza farsi attendere. lasciando che sono liberi. Tu soltanto. Gli Africa Unite con Tu, era il 2000, e adesso invece ci avviciniamo agli anni nostri, 2023. Questo è Capleton, Burn Burn, è una traccia recente, ma è lo stile che ha segnato, come dicevamo prima, la carriera artistica di Nerone, che ha presentato qui su Port Royal il suo volume 1 di All In, una raccolta di suoi rhythm che dove altri artisti ci hanno anche prodotto delle proprie canzoni. Adesso andiamo ad ascoltare Burn Burn di Capleton. If you know I fi make it in a life and step up up money in a the vault, well I fi your fault. If you know say discipline is just some of the key, you a fi wise and smart, well I fi your fault. If you know genuine loyalty and not loving in your heart, I know fi me fault. Every day you get up and you now make no move, then I talk about the side. And the liar stuff, I fi on them, I fi keep my prayers up, I fi on them, Babylon them wired up, I fi on them, Babylon a recycle, I fi on them, them coming with a real mic up, I fi on them, see clear them don't like you, I fi on them, and them no fear to strike you. Alright. All about. Now the fire reach them and them a ball out. from your sell out. Your soul we a go fall out. A the wrong man name them go call out. So me go put no Goliath and sell out. And if them this last say I may a go all out. Babylon they put up and a stall out. I know them thing a backfire, them a stall out. Vampire say them want your flesh, you go rip it up. And them dirty lies tell them still a keep it up. Well, Babylon them full of style and a trick it up. Them only want to keep you poor, now want you reach it up. So when you see the devil's food, nobody sip it up. And no listen back at all, them only lip it up. So you have to make your thing rise and want to lift it up. Osha la selezione, Port Royal. Tune per il nostro Osh. Etana Alborosi, Blessing. Cause when a man love a woman and a woman love a man, a judge a blessing. When I love you and you love me, a judge a blessing. Cause when a boy love a girl and a girl love a boy, a judge a blessing. Simplicity, I'm dreaming of tomorrow for me and you. I'll make you my reality, girl. I will be the woman to satisfy your needs. Love a man, a judge, a blessing. Oh, oh, oh, like I love you, and you love me, a judge, a blessing. Cause when a boy love a girl, and a girl love a boy, a judge, a blessing. Ooh. Try to confuse your mind, but diamond and gold not always a shine. Trust my heart, I'm for sure you'll be mine. Look up to the sky, that a sign. Well done. But that is just a waste of time. Them so can break down love divine. Come again, where I coming from, Lileke, Osh. Thankful for the blessings that are falling on my table, learning all my lessons, now I'm willing and I'm able to do just what I can, as humble as a lamb, working towards a goal and we give thanks for helping hands. For health and strength and life, for length and peace of mind. Good people and good vibes, we give thanks every time. In every single line, even if it no rhyme, I go sing redemption songs to the people. When I think of where I'm coming from, looking back at where the journey began, I really have to say that I'm strong, I'm strong. Life of a queen in a this your concrete jungle. Firm in a regime so you're not gonna see me stumble. Mama said no come to town and mix with us, you won't go see. They know me just surprise and summarize and summer humble. Aunt of Christiana, yes, my left go look for mine. Never sell my soul, me settle down and take my time. Do it for the love, so naturally the light that shine. Now me realize it's by design. When I look at where I'm coming from, looking back at where the journey began, I really love you, said that I'm strong, I'm strong. 500 policemen knocking at my door. Chief of staff with him 404, telling me can't take the knock, knock, knock, knocking at my door. Can't take the knock, knock, knock, knocking at my door. Don't give up the land, they don't do nothing for the poor. Say if they put me hands up, it's me, go like a boar. Tell them to stop the knock, knock, knock, knocking at my door. Tell them to stop the knock, knock, knock, knocking at my door. With so much happening, so much going on, you choose to come for me. And all we represent is worldwide delegates to express a love and peace. We got tears in our eyes, nobody mustn't die in our custody. You said you would protect and serve. Looking so impossible for fingers. Babylon, you're getting on my nerves. You've been doing it for years. I see you fight the rest of my them for the earth. I see you drive by and observe every corner, every curb. And so many eight bombs fly like bird. You ask me a question, but I have rights to reserve. Me not sell out to get to the tradition I preserve. And they saw when me come from, me not walk me not run from to hold me church. You want class me as gunman. 500 policemen knocking at my door. Chief of staff with him 404, telling me can't take the knock, knock, knock, knocking at my door. Can't take the knock, knock, knock, knocking at my door. Dirty Babylon, them don't do nothing for the poor. So if they put me hands up, it's me go like a bore. Tell them to stop the knock, knock, knock, knocking at my door. of my car, you wanna search inside. Check out my vehicle, feeling hurt inside. What you wanna do, I can't do for you. She say you a creamy officer. Yuppie, endless collaboration. Riding Pandora, demand the world will enjoy it. Your interrogation on its own seems to spoil it. She say you a creamy officer. Make no mistake, I and I was born as a defender. Can't mix with the same gender. I see no for them, I come with them agenda. I try to mix me up and throw me in a blender. I and I was born as a warrior. Real true warrior. Land swan for me built warrior. Touch my bill and boy can't carry ya. Tell them, say them can't cross in me barrier. At any time, at any moment when I'm Pull Up and Come Again, Osha alle selezioni, questa è Collie Buds, Take It Easy. What's the hurry now? What's the rush? Take some time out, burn some kush. Life too short, have you always on the go-go. See, see my trick, you have your feeling like a yo-yo. What's the hurry now? Play it cool. Some would tell me, say me, just a fool. But hustle, you hustle for the money and you're down now. But it's alright if you take it real slow. Sometimes you don't have to worry. Feels like you're going nowhere. Time out, burn some kush. Life too short, have you always on the go-go. See, see my tricky, have you feeling like a yo-yo. What's the hurry now? Play it cool. Some will tell me, say me, just a fool. But hustle, you hustle for the money and you're down now. But it's alright if you take it real slow. Sometimes it's alright if you want it low. Ultime tracce per noi questa sera su Port Royal, puntata davvero ricca. God help them, cause they never know. Make the goodness in your heart take control. Because you don't have to worry. Feels like you're going nowhere in a hurry. What's the hurry now? What's the rush? Take some time out, burn some kush. Life too short, have you always on the go-go. See, see my tricky, have you feeling like a yo-yo. È un po' di electro book. Yeah. Sasha. Di Etana, Love Song. Vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato qui su Port Royal e vi aspettiamo mercoledì prossimo qui sempre su www.pirateradio.it e live dal Brancaleone, mentre giovedì prossimo saremo alla Sally Brown insieme a Freddy Stork e a Stugolo. E adesso Pietro, riacchiappamela per favore. Good night and good vibes. Importantissima che però settimana scorsa, ovviamente perché non eravamo in onda, non abbiamo fatto. Un ringraziamento a tutti quelli che sono venuti alla serata lì alla Casa della Pace con Maglio, una big reunion. C'è stato davvero un'atmosfera, delle vibes cariche, anche delle sorprese, delle carrambate quasi.